Nessuna intenzione di riaprire le procedure per il ponte sullo stretto di Messina. A dichiararlo Jacopo Giliberto, portavoce del ministro dell'Ambiente Corrado Clini, che risponde così all'ipotesi che era stata ventilata dal quotidiano La Repubblica, alla quale l'opposizione, ma anche forze che sostengono la maggioranza, come il PD, avevano prontamente condannato. Secondo Giliberto, il governo vuole chiudere il prima possibile le procedure aperte anni fa dai governi precedenti e per farlo deve seguire l'iter della legge. L'intendimento del Ministero dell'Ambiente arriva dopo un videomessaggio con il quale il ministro Corrado Clini aveva salutato la chiusura della prima edizione di Trieste Next, salone europeo della ricerca e dell'innovazione scientifica Save the Food. Una prima edizione con 30.000 presenze, oltre 2.500 libri venduti, 2.000 studenti che hanno preso parte alle attività, ma soprattutto ospiti internazionali ed il confronto fra ricercatori e imprese. E i promotori hanno già anticipato le tematiche della prossima edizione, l'economia dell'acqua e la rinascita delle città di mare. Una scelta molto giusta, ha affermato Clini, anche perché la risorsa idrica sta diventando una delle chiavi per lo sviluppo pacifico di importanti regioni del nostro pianeta. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Trieste.